e all'inmi la Eli e gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, qui lo spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Oh mamma mia, dopo il ciclone Alberto Forchielli che ha sistemato un po' tutti dalle 6:30 alle 7, anche il suo amico Prodi che ritroviamo in prima pagina su molti quotidiani. Andiamo a sfogliarli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E Ale, siamo nel mese di Natale, è giovedì 1 dicembre e le aperture dei quotidiani, il Sole 24 Ore, accordo OPEC sui tagli, rally del petrolio più 9%, questo è il titolo di prima pagina. C'è uno sguardo internazionale per il Corriere della Sera perché c'è un'intervista al ministro degli esteri russo Lavrov. Russia e Stati Uniti, ora si riparte. I piani di Mosca, milionari nella squadra di Trump, rivoluzione sulle tasse. Dunque il Corriere della Sera apre sull'attualità internazionale. E poi ecco qui, Repubblica, la scelta di Prodi, sì per le riforme, battaglia finale sul voto all'estero. La Stampa, referendum, il sì sofferto di Prodi. Il Giorno, Prodi in campo, voto sì. L'Unità, Prodi vota sì, Berlusconi invece no. Mentre il Manifesto mette la foto di Renzi e Prodi con una stretta di mano, derive e approdi. Per il Fatto Quotidiano, le quattro Italie tradite da Renzi, pronte a punirlo col referendum, il titolo di prima pagina. Mentre Libero, paralizzati dal referendum, Italia fuori di testa. Statali, intesa su aumenti e premi, questo è invece il titolo di apertura del Messaggero, mentre La Verità si concentra sulle banche, crack di Banca Etruria, non paga nessuno, beffa i risparmiatori, prima sentenza sul fallimento dell'istituto caro a Renzi e alla Boschi, assolti i vertici, non hanno ostacolato la vigilanza. Va bene, vedremo altre aperture, voglio subito andare a Saronno per quello che racconta il giornale. Davvero è impressionante lo scenario che viene dipinto dopo gli arresti di un anestesista, l'anestesista Cazzaniga, e l'infermiera, nonché sua amante Laura Taroni, accusati di avere ucciso dei pazienti in questo ospedale. Perché è inquietante? Perché intanto lo spaccato che emerge è che in molti, forse troppi, sapevano o avevano dei sospetti. Guardate qua per esempio il titolo di Repubblica: Saronno, 35 morti sospette, l'ospedale fu avvertito ma insabbiò l'inchiesta. Questo è il titolo, tutto da provare. Si aggrava la posizione della coppia arrestata, ci sono anche dubbi sul decesso del padre del medico. Ma è davvero impressionante leggere gli spaccati degli inviati di cronaca a dire tutti in pratica erano al corrente di qualcosa che fosse ci fosse qualcosa di strano. Allora intanto c'è il colloquio con il nipote di una delle vittime, il nipote di un signore molto anziano ricoverato per un femore rotto, Antonino Isgro, aveva 93 anni, morto in 2 ore. Ora la faccia di quel medico, dice il nipote, non me la scorderò più. E se penso che un uomo come mio nonno, che ha fatto la guerra e sopravvissuto alla prigionia, ha dovuto finire i giorni senza poter lottare e decidere per se stesso, mi sembra di impazzire. Erano da poco passate le 10 del mattino, quando il 30 aprile 2012 il dottor Cazzaniga aveva preso in mano la situazione e constatato il decadimento cognitivo del paziente, definito assai inquieto e agitato, aveva deciso di applicare il suo protocollo. Intervento definito letale dal GIP di Bustarsizio Luca La Bianca, messo in atto volontariamente per anticipare il normale verificarsi degli eventi. Una fiala di morfina, verosimilmente a 10 mg, somministrata in sinergia con il sedativo midazolam e altre 2 fiale fatte assumere dopo soli 20 minuti. E adesso tutti, come racconta Paolo Berizzi su Repubblica, se di turno c'era lui, cioè Cazzaniga, gli altri si spostavano, veniva chiamato Dio, veniva chiamato Angelo della Morte. Ma guardate, c'è una storia nella storia che ancora più di tutte mi ha sconvolto. Letteralmente. È quella raccontata dal Corriere della Sera, Cesare Giuzzi e Roberto Rotondo, a pagina 20. un lavoro in cambio del silenzio, la dottoressa che sapeva dei killer. Cioè, secondo questa ricostruzione, la dottoressa Simona San John sapeva di questa vicenda e ha detto: o mi date un lavoro con un bando ad hoc oppure faccio sapere tutto. Cioè avrebbe, usiamo il condizionale, speculato dicendo, mettendo in campo un posto di lavoro per se stessa in cambio di una eventuale denuncia. La dottoressa San John racconta al Corriere: è indagata per falso ideologico in atto pubblico perché è sospettata di aver aiutato Laura Taroni, l'infermiera, a falsificare le analisi del sangue del marito. E quando riceve l'avviso di garanzia, il primario, Nicola Scoppetta, le suggerisce la linea difensiva. Ma la donna è furibonda, rivela che i vertici dell'ospedale, se non l'aiutano, lei avviserà i parenti dei pazienti morti che un medico del reparto li ha ammazzati. E allora a un certo punto il primario la chiama: tranquilla, stiamo preparando il bando di concorso per rinnovarti l'incarico. Cioè, una vicenda davvero incredibile. Assumetemi o avviso i parenti. E, come dire, ci sono storie, no, storie, orrore nell'orrore. La infermiera che metteva i farmaci nel pesto per uccidere il marito, in 14 anni lo ha convinto di avere il diabete. E che durante il funerale del marito, nello stesso giorno, dicono i magistrati, faceva spese online acquistandosi un telefonino, uno smartphone, un iPad. Come definirla questa storia? Non so, a leggere gli articoli uno dietro l'altro davvero si piomba nell'orrore ogni giorno di più. Oh, c'è ancora tanto di Lapo Elkan, ovviamente, a Lapo Elkan che non apre bocca, nessuno nella sua famiglia, nessuno tra gli avvocati. Racconta il Corriere che la escort Marie potrebbe testimoniare, tutti la cercano, tutti la inseguono, non si fa trovare. Beh, mettiamola alla Michele Serra, la maca. La maca di Michele Serra, pagina 30, è in corso ormai da diversi anni una specie di derby Corona-Lapo a chi riesce a fare la belinata più grave e spettacolare. I due sono entrambi maschi beta, non vincenti, insomma, neanche più giovanissimi, con una differenza tecnico-tattica che potrebbe orientare le due eventuali tifoserie. Corona tira a fregare il prossimo, Lapo se stesso. Dunque Corona si produce nel classico gioco all'italiana che, nonostante movida happy hour, nonostante tanta Milano in gingheri, ha sempre un quid Alberto Sordista da un giorno in pretura, da eterno dopoguerra, l'arte di arrangiarsi con le mazzette nel controsoffitto e comunque un prete per chiacchierarne i vari reinserimenti sociali e corsi di ravvedimento. Lapo invece platealmente senza difesa, con attacchi compulsivi e scervellati di bagordo autodistruttivo, e al momento buono neanche un trans per chiacchierar, non a Manatta e tantomeno a Torino, tutti che lo mollano al commissariato o in astanteria, e i messaggi di incoraggiamento delle ex che arrivano da distanza di sicurezza e come biasimarle. Dovendo proprio scegliere, sarei lapista, per evitare giochi di parole, grazie. Anche se ho disgusto per le droghe di ogni ordine e grado, con l'eccezione del vino rosso e anche bianco, mi pare un buon figliolo, Corona un po' meno, che fatica moltissimo a star nelle regole. Nascere troppo ricchi è meglio che nascere poveri, ma il denaro non garantisce la felicità, soprattutto se è quello del nonno. Così Michele Serra e la vicenda, forse la chiudiamo qui. Allora, signori, c'è un altro caso di un preside d'istituto a Catania che è stato preso a schiaffi e pugni da una mamma. Ormai è cronaca anche questa, il famoso rapporto di collaborazione genitori-insegnanti. Mio figlio di 8 anni deve tornare a casa da solo, e la mamma aggredisce il preside a scuola. Il preside si chiama Tarciso Maugeri, 41 anni, laurea in scienze della formazione con 110, dottorato a New York in matematica e informatica, ora dirige l'istituto comprensivo Livio Tempesta di Catania, si presenta col volto graffiato, aggredito a scuola martedì. La mamma, che lavora fino alle 15, pretende che il figlio di 8 anni torni a casa da solo perché lei non ha nessuno per andare a prenderlo. Nasce una discussione: al limite c'è mia figlia, Scusi, quanti anni fa? Anni ha la figlia? Ne ha 17. È sempre minorenne, signora. Non possiamo lasciarla a una minorenne. Qui forse si potrebbe chiudere un occhio, ma vabbè, insomma, lasciamo stare. 17 anni. È la legge. Al che la signora inizia a riempirmi di improperi e poi passa alle mani. Schiaffi, due sberle, tutta la rabbia che aveva dentro. Intervengono i bidelli, gli amministrativi fermano la madre, l'allontanano e il dirigente finisce al pronto soccorso e si mette in malattia. Ale, ennesima vicenda scuola. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata. Se siete in macchina, mi raccomando, mani ben strette sul volante e oggetti contundenti per chi fa colazione da appoggiare. Per leggere ciò che Paolo Cittadini racconta sul Giorno a pagina 21. Sesso coi ragazzini in cambio di regali, condannati il prete e il conduttore TV insieme ad altri due imputati, ma a loro, Brescia, sono stati inflitti 2 anni con sospensione della pena. Risultato, sono già tutti liberi. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il più bischero dell'informazione. E va bene, ci sta, cari ascoltatori, eccoci qui. Mandate le vostre sigle al 349-238-6666, un numero WhatsApp, quindi potete mandarle in audio se non l'avete ancora capito. Allora, sul referendum piomba, e questa è l'apertura di molti giornali, a 3 giorni dal voto, la decisione di Romano Prodi di comunicare voterò sì. C'è da dire che prende uno spazio incredibile. Io non so quanto gli italiani decideranno in base alla comunicazione del professor Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, ex presidente della Commissione Europea. Però diciamo che sui giornali lo spazio a questo comunicato di Prodi è uno spazio che per molti quotidiani significa l'apertura di prima pagina. Comunque, Prodi, dico sì anche se la riforma non è chiara. Questa è la posizione dell'ex premier, il padre dell'Ulivo, che rompe il silenzio, racconta Dino Martirano, a pochi giorni dal voto. Sento il dovere di rendere pubblico il mio sì, motivato dalla mia storia personale, dalle possibili conseguenze sull'esterno. Un sì, quello di Prodi, comunque rispettoso di chi farà la scelta diversa. Renzi, che si affretta a ringraziarlo, scrive il Corriere, son contento per le parole di Prodi. Dall'altra parte Renato Brunetta, che dice Prodi vota sì, è un motivo in più per votare no. Certo, l'analisi è interessante. Alessandro Trocino, a pagina 9 del Corriere della Sera, racconta così. Il professore motiva: anche se le riforme proposte non hanno certo la profondità, la chiarezza necessarie per la mia storia personale e le possibili conseguenze, sento di dover rendere pubblico il mio sì. Ci sono effettivamente 2 passaggi contro chi ha strumentalizzato quella storia rivendicando a sé il disegno che aveva contrastato. E uno in cui si vuole ignorare, perfino negare, la storia dell'Ulivo con una leadership esclusiva, solitaria ed escludente. Ecco, questi 2 passaggi spiega Sandra Zampa, e cioè la portavoce di Prodi, sono riferiti a Renzi. Romano così dice: caro Renzi, sappi che prima di te non c'era il nulla, c'è una storia corale, quella dell'Ulivo, senza il quale non ci sarebbe stato il Partito Democratico. E dunque, come dire, voto sì, ma qualche bacchettata a Matteo Renzi, Prodi la dà. Questa è la posizione, appunto, di Romano Prodi. In realtà racconta, in un interessante retroscena, Claudio Tito, in prima pagina di Repubblica, e poi continua a pagina 3, Renzi in questo momento gioca tutto col voto all'estero. Si gioca tutto lì. Addirittura la scommessa è quella di ottenere 1 milione di voti dall'estero. E Claudio Tito racconta anche di un colloquio che ha avuto Renzi in Belgio. La comunità italiana è ancora molto numerosa e quasi tutti votano sì. Matteo Renzi ascolta l'interlocutore, che è Christophe Berti, direttore del più importante giornale belga, Le Soir. È un osservatore esterno, ma butta nella mischia l'ultima speranza per il fronte che sostiene l'approvazione della riforma costituzionale, l'idea che gli elettori residenti all'estero possano essere la vera arma di riserva per Palazzo Chigi. Sebbene nelle ultime settimane abbia cambiato registro, Renzi sa bene che un'eventuale sconfitta sarà gravida di conseguenze e allora dinanzi al suo interlocutore improvvisamente si ferma, come chi trova un'insperata ancora di salvezza e poi dice «così ce la possiamo fare». Ecco, in questo retroscena, in questo colloquio con il direttore di L'Essoir, che poi viene intervistato da Alberto D'Argenio e dice «la mia sensazione è che gli italiani in Belgio, in quanto europeisti e attenti alla stabilità, premieranno il sì», l'ultima mossa di Renzi è questa: col voto estero si può vincere quel 3%, cambia tutto. Dunque Renzi che punta al voto all'estero. L'ottimismo è anche, per quel che riguarda il governo, sulla stampa. Francesca Schianchi nel quartier generale del sì dicono «vinciamo all'ultimo miglio». Dall'altra parte invece le critiche dure. Il Fatto Quotidiano insiste sulla questione dei soldi. La legge ci vieta di sapere chi investe milioni per il sì. Stefano Feltri e Carlo Tecce raccontano a pagina 5 del Fatto: il comitato per il sì ha solo 1 milione di euro, ma il PD ne sta spendendo più di 10. E allora il Fatto si chiede, e vorrebbe una risposta, da dove provengono questi soldi. Il comitato ha raccolto 500.000 euro dai militanti, 500.000 euro li incasserà con la questione delle firme raccolte, quindi 1 milione. Ma solo per spendere i pieghevoli a casa ha speso 6 milioni. Certo, ci sono i finanziatori. Uno, l'unico, è il caso conclamato di Davide Serra, l'unico finora ad aver rivelato l'impegno. Ma soltanto per spedire 2 milioni e mezzo di lettere agli italiani e 16 milioni di volantini agli italiani sempre in patria, il Nazareno ha speso 7-8 milioni di euro. In tutto il Fatto fa un calcolo di circa 10 milioni spesi e la domanda resta appesa nel nulla, dicendo la legge ci vieta di sapere da dove vengono questi soldi. A proposito di soldi, invece, il Giornale attacca in prima pagina, con il titolo di prima pagina, e accusa Renzi, spende. Volando sull'eli soccorso raccatta gli ultimi sì, viaggiando tra Potenza, Matera e Caserta su un mezzo destinato all'emergenza nazionale, un elicottero per la precisione, costo 39.000 euro. Ha utilizzato, secondo il Giornale, sabato 19 novembre, tra Potenza, Matera e Caserta, appunto un elicottero dell'aeronautica militare di turno SAR, Search and Rescue, ovvero un velivolo di soccorso responsabile in quel momento per l'area da Roma in giù, per fare altre cose, ecco, per appunto cercare le persone, per intervenire in casi di emergenze. Costo 39.000 euro. In tutto c'è dall'altra parte Berlusconi, racconta Repubblica, è pronto a un nuovo patto del Nazareno, ma a condizioni molto chiare. 4 per le esaltezze, elencate nel salotto di Bruno Vespa, dove dice tra l'altro che se vincesse il sì ci sarebbe una dittatura e sarebbe meglio andarsene all'estero, in un altro paese. Vabbè, questi sono gli scenari pre-voto. Qualcuno negli scenari pre-voto ha messo anche la questione degli statali e gli 85 euro. Non è proprio un accordo al momento, certo, è un'intesa più che altro tra governo e sindacati, ma il buon Mauro Meazza, statale d'eccellenza, sa tutto e può spiegarci tutto, come racconta il Sole 24 Ore, vero Mauro? Certamente, caro Alessandro, buona giornata. Sì, due pagine oggi sul Sole 24 Ore per approfondire questa intesa che arriva dopo 7 anni di blocco per i contratti degli statali. Questo è anche utile ricordarlo, appunto, questa intesa che prevede questi 85 euro medi, medi in busta paga. Esatto. Lo ribadisco perché ieri anche il ministro della pubblica amministrazione Mariano Madia lo ha ribadito, quindi lo sottolineo. Comunque due pagine, dicevo, proprio dedicate al contratto degli statali. Ma non ti sarà sfuggita l'importanza dell'accordo OPEC, anche lì un accordo ma fragilino, come spiega Sissi Bellomo a pagina 3, sul taglio della produzione di petrolio, che E può segnare una svolta importante. Ieri le quotazioni del petrolio si sono così innalzate, ma ti raccontiamo tutto nelle prime pagine. O poi dovrei fare un siparietto da Radio Fisco un po' più esteso del solito, se me lo consenti, ma se no lo faccio lo stesso. E vorrei dire innanzitutto, vedete che come ho il polso della situazione, prego. Certo, no, ma io vado avanti in, così, non interessandomi di quale può essere il tuo parere. Vorrei dire che per gli abbonati al quotidiano del fisco, sai, il nostro quotidiano digitale del fisco, ecco, ora è anche possibile scrivere delle lettere al quotidiano del fisco, spieghiamo appunto, diamo anche l'indirizzo nelle pagine norme e tributi. Vi voglio anche ricordare, sempre per, all'interno di Radio Fisco, che, ma non solo per i professionisti del fisco, che abbiamo le due pagine dedicate al decreto legge fiscale sulla rottamazione delle cartelle e delle multe. Tu hai cartelle da rottamare, no? Multe da rottamare, no? Chi lo sa? Paghi le tue multe regolarmente o non chi prendi, lo sa? Non so. Chi lo... Beh, no, la seconda la escluderei. Escludiamo la seconda. Ecco, allora potresti utilmente prendere visione delle due pagine sulla guida appunto alla rottamazione delle cartelle delle multe. E poi, guarda, c'è anche pronto il software per la segnalazione delle anomalie degli studi di settore. Ora tu magari non comprendi subito l'importanza della questione, ma ti assicuro invece che i nostri ascoltatori esperti alla materia lo comprendono molto bene. Oggi è giovedì? Oggi è giovedì. Perché è vigilia di partite e quindi questa cosa mi manda in confusione. Comunque è giovedì e infatti c'è Casa 24 con il Sole 24 Ore, sì. Tra cui anche un interessante contributo sulle polizze che si possono stipulare antimorosità. Cioè mettiamo che uno affitti, poi l'inquilino, come dire, non paga, ecco, si possono stipulare delle polizze. Ti segnalo l'articolo da meditazione, è un'intervista a Francis Fukuyama, sai quell'economista che ha scritto La fine della storia? Certo. Interessante intervista nelle pagine di commenti e inchieste su un po' a tutto campo, anche parla dell'Italia, parla di Trump, parla dei populismi, insomma dell'Europa, è da meditazione appunto, non è possibile riassumere. Molti parlano dell'accordo degli statali, noi segnaliamo anche che c'è un accordo per il settore della carta e della cartotecnica, poiché tu dici sempre che la carta costa. Esatto. Ecco, allora vorrei segnalarti che è stato raggiunto un accordo con aumenti che arriveranno fino a 70 euro. Infine, una buona notizia, l'Unione Europea ha deciso di erogare 30 milioni per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. Così ti lascio con questa indicazione, si parla anche di una, spieghiamo nelle pagine di Imprese e Territori che tu leggerai scrupolosamente, si spiega anche che verranno modificate le norme sui fondi strutturali. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, o sciuba femmina dell'informazione! Ma va. Allora... Agli statali abbiamo detto 85 euro, questa è la promessa, tra l'altro l'intesa con i sindacati, vi segnalo che su Repubblica, nelle pagine dell'economia, pagina 24, il ministro Madia dice che lo definisce così un accordo Robin Hood che va nella direzione di quanto ha fatto il governo fino ad oggi, cioè dagli 80 euro per i redditi più bassi al tetto di 240.000 euro per quelli alti, cioè il concetto dare ai più poveri e meno a chi già guadagna. Questo lo definisce così, Robin Hood. Oh, le banche, Banca Etruria in particolare. C'è stata una prima sentenza che ha fruttato l'ira dei risparmiatori, qualche titolo anche indignato, come il titolo di prima pagina della Verità, che voglio andare a ricordare, crack di Banca Etruria non paga nessuno. Nelle operazioni immobiliari per risanare i bilanci di Banca Etruria 2012 non c'era la volontà di ingannare Banca Italia e Consob, così leggo dall'articolo sul Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini. Per questo sono stati assolti dal reato di ostacolo alla vigilanza l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, il direttore centrale Davide Canestri. Secondo il giudice il fatto non sussiste. La procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi e 2 anni per 2 anni e 8 mesi per alcuni, 2 anni per altri, una sconfitta pesante. Lo è però soprattutto per l'associazione di risparmiatori che parlano di sentenza inammissibile e vergognosa. Il titolo all'interno della Verità, pagina 3, per i giudici Banca Etruria è fallita da sola, ma anche il Giorno, processo Etruria, tre dirigenti assolti, ora respira anche papà Boschi. Assolti gli ex vertici di Banca Etruria, non ostacolarono l'attività di vigilanza, anche Repubblica titola così questa vicenda. Va bene, andiamo all'estero. All'estero Donald Trump ha detto, presentando la sua squadra del tesoro, quello che viene definito dal Corriere il club dei milionari per l'economia, ha detto che si spoglierà di tutte le aziende, cioè mi libererò di tutte le aziende. Certo, questa conclusione, che poi questo annuncio più che altro sul conflitto di interessi, come racconta Luca Celada sul Manifesto a pagina 7, Trump lo risolve in 140 caratteri, cioè in un tweet. È diventato praticamente un rito mattutino per gli americani seguire via Twitter le esternazioni dell'umorale miliardario che si appresta a sedere nella Casa Bianca, racconta Luca Celada appunto sul Manifesto. Negli ultimi messaggi del bollettino Trump, spesso redatto a notte fonda, c'è stata la fosca minaccia ai contestatori, un commento su Abdul Razak Ali Artan, attentatore dell'Ohio State University, che lunedì ha fatto 11 feriti, definito un rifugiato somalo che non avrebbe dovuto essere nel paese, e ecco l'altra scarica di tweet, tra cui la questione del «lascio volontariamente la mia azienda». Ora bisognerà capire come, però questo è l'annuncio di Trump. Vi segnalo una notizia che arriva dalla Norvegia, ma che ci riguarda da vicino. Ne scrivono tutti qua, una pagina sul Giornale, una pagina su Libero, una pagina sul Giorno, una pagina sul Fatto Quotidiano. Per via di omissioni e giustizia lenta, in questo caso sotto accusa la procura di Trento, è stato liberato in Norvegia il mullah Krekar, considerato uno ai vertici del reclutamento del terrorismo islamico internazionale. Era detenuto in Norvegia su richiesta di mandato d'arresto italiano, ma ora la procura di Trento ha detto che i tempi del processo di estradizione sono troppo lunghi, perfino per la giustizia italiana, che di certo non si distingue per rapidità, e con questa motivazione, su richiesta della procura, il GIP di Trento ha revocato l'ordinanza di misura cautelare nei confronti del mullah Krekar, 60 anni, ritenuto dai carabinieri della procura di Roma uno dei capi di una rete terroristica internazionale jihadista. E così Roma ha dovuto rinunciare all'estradizione. Omissioni e giustizia lenta, il mullah torna libero, titolo del Fatto. Per tutti è un terrorista, ma l'Italia lo fa liberare, così Libero. Vabbè, questo succede, lo faccio registrare. Lo registro. Notizia per tutti, non so, gli anzianotti, quelli di una certa età, comunque insomma, notizia per tutti quelli che sono all'ascolto. Il tennis è l'elisir della longevità. Non so, due pagine del quotidiano Il Giorno, è una ricerca australiana su 80.000 persone over 50, gli sport che allungano la vita. Bocciato il calcio, mentre il tennis è lo sport che allunga di più. Riduce le percentuali del rischio di morte, ecco. Il nuoto poi al secondo posto, al terzo l'attività aerobica, poi il ciclismo, mentre calcio, rugby e corsa, bocciatissimi. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Torniamo sulla vicenda Trump, perché Libero ci fa sapere in una mezza pagina, a pagina 12, della vita quotidiana di Melania, che si occupa del bambino, cucina per Donald, fa Pilates e legge. Melania legge. Ma chi se ne frega!